sulle onde, sulla vita come un'altalena, e parlare pure con i pesci, come una sirena. Ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene dentro. Questo gioco è un gioco d'equilibrio, devo solo farci un po' la mano, perché vivere il mio tempo è viverlo da dentro. Sorridi, ora, guardami, ti direi hai ancora voglia di aspettiamo l'aurora, quando i più bei frutti saranno di tutti. Ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro. Sorridi, ora, guardami, ti direi hai ancora voglia di nuotare in questo mare. Aspettiamo l'aurora, quando i più bei frutti saranno di tutti. Ti direi hai ancora voglia di nuotare in questo mare. Aspettiamo l'aurora, quando i più bei frutti saranno di tutti. Vivere il mio tempo è viverlo da dentro. Grazie!